avrò anche roba da fare, avrò cenato a quest'ora io, a malapena ho pranzato io, anzi a metà ho pranzato Antonio, lo sai, mi ero fatto una cotoletta appanata e mi sono dimenticato pure di mangiarla. Figurati. Le cotolette impanate, sì, mi piacciono, però hanno quell'impanatura grossa e ti si infila in mezzo ai denti. Cioè ho mangiato il primo, ho mangiato i tortelloni di cappelletti al prosciutto crudo e non ho mangiato la cotoletta. E vabbè, è che adesso la 9 di sera, se la mangio adesso non ceno poi. E quindi così è. Che palle comunque. D'altronde tutti gli hobby costano, Antonio, se ti vuoi dedicare ad altro tutto costa, qualsiasi hobby ti vuoi dedicare, modellismo o anche altre cose, porca miseria. Se ti vuoi comprare un drone lo vendono, costa 3.000 euro costano, ma quei droni militari, insomma. No vabbè, ci sono droni bellissimi anche a 1.000 euro, che ne so, il Phantom, vabbè, avranno fatto altri modelli, il Phantom era bello, DJ Phantom come si chiamava, poi gli mette una bella videocamera, un bel sistema di stabilizzazione gimbal, solo che anche lì, anche per cause ovvie, hanno un po' limitato tutto, se no vedresti i droni ovunque che girano in città. E se cade in testa qualcuno, i certi sono anche belli tecimi, non sono giocattolini di carta velina. Se cade in testa qualcuno da una certa altezza, gli fa pure male. Quindi adesso molte zone sono interdette, capito? In città non lo puoi far volare, devi andare nelle zone adatte, non so se ci serve un patentino, comunque devi fare un corso per saperlo pilotare, e non è che lo puoi schiantare in faccia alle persone. Tu te lo compri uno, poi prendi, gli metti la telecamera e ti guardi tutti i bagni della zona. Ehi, ho le terrazze, mico, le terrazze dove vanno a pigliarsi il sole le ragazze mezzanude, ma non credo che nessuno lo faccia. Se ne andranno, mamma mia, mamma, al telefono c'è una bocca di scandalo, mamma non sa cosa sia la, come si dice, non la privacy, è un termine simile, ah ecco, non sa cosa sia la discrezione, quando parla al telefono lei ha sempre la voce, la sente tutto il rione, e parla di cose anche nostre, e poi questo è sempre quello che è peso, capito? Sì, le donne sono così, sono caramellose, sono capito. Io c'è un'amica di Simona, ogni mattina alle 5 verso le 6 pigliava e faceva squillare WhatsApp, finché non mi sono girato i coglioni, ho preso il telefono in mano e ho detto ascolta, se devi parlare con lui, fai una cosa, ho detto, il telefono è alle 10, chi alle 6 di mattina non le balle piene di sentire le cazzate vostre, gli ho detto. Se ti va bene così, se no, no non te lo fare più, ho detto. Mi hai detto cosa vuoi fare. Sì, ma sai perché adesso è a bozzi anche al telefono, perché l'amico suo è sordo, capito? E gli ho detto, ma dì di comprarsi l'apparecchio acustico, porca miseria, che non si può telefonare così, a ripetere cose 10.000 volte o urlare al telefono. Cazzo, porca miseria. Ce l'ho un aggeggio io, glielo dai, si appoggia nel petto e senti il battito del cuore, dall'altra parte ci sono le cuffiette, non fai altro che lui nella cornetta del telefonino rimette quella fare lì e usa le cuffie, si mette le cuffiette, mette il volume a manetta, vede come sente. Ma lo sai che da quello che vendeva radio Bao Bao e simili, come si chiama? Quello cinese, 409 Shop, a parte radio, tester, queste cosettine di elettronica, vendevano anche apparecchi acustici universali, certi erano fatti tipo amplifon, c'è una cosa piccola che proprio mettevi nel padiglione, alimentata ovviamente da una batteria a bottone piccolo, no? A prezzi ridicoli, 20 euro, 30 euro. Certo, non è sagomato perfettamente come il condotto uditivo, ma caspita, io mi ricordo quando nonna, buonanima, tanti anni fa si era fatta l'apparecchio amplifon e come andare dal dentista, le hanno preso il calcolo e il condotto uditivo, poi insomma ha fatto questo coso proprio su misura per il buco dell'orecchio, 2 milioni, non so quanto, cioè milioni per nulla, perché poi nonna si era rotta le balle e non e se lo toglieva, non ne voleva roba infilata nell'orecchio. E poi c'era anche un modello diverso, cioè avevi questa scatolina che mettevi in un taschino frontale e c'avevi l'auricolare che andava all'orecchio, capito? Prezzi irrisori, però poi dopo un periodo li hanno tolti tutti, forse non lo so, o non li vendevano, era roba, vabbè, non a norma in Europa, sicuramente non era la norma. Loro mettono China Export, capito? Non ci è nostro. Già lo so, già. Infatti quelli li sequestrano subito. Già è roba. Pensa se è roba che ti esplode nell'orecchio, magari c'ha una microbatteria litio, ti scoppia la batteria. E perdi l'udito, ti fa sordo, ti fa, anziché aiutarti a sentire. Vabbè, comunque si potevano comprare per provami, tanto a vedere se funzionavano. E così è. Antonè, che te devo dire? Che ora è? Le 9, l'ora del film. Porca miseria, devo fare ancora anche roba al computer piuttosto delicata, peraltro. Una giunagana, sto sempre dicendo domani, domani, lo faccio domani, lo faccio domani, lo faccio domani. Non lo faccio mai. Figurati. Uiuia. No, adesso qua. Non vado a cenare, io tanto Simone ha già cenato, io ho preparato la roba, adesso ceno anch'io. E così mangio qualche cosa, poi boh, mi guardano un po' di TV. Io che mi sono collegato all'una all'1:15, 1:20. Ero ora con Giovanna ieri sera a casa sua, sono trovato io un po' i bambini. Poi sono salito qua a casa e non sei neanche accorta lì, sono rimasto un po' con la televisione, poi sono entrato lento. Stamattina sono svegliato, pensavo che erano 2:30, ma sono svegliato lì. Antonella, scendi in giù, prendimi un cappuccino, ho detto vai a far culo, tu il cappuccino, ho detto, e Sonia, ho detto. Dice allora scendo io e scendi tu, basta che non ti ammazzi dalla scala, gli ho detto. E io. Vediamo un po', prova, eccomi qua, 1, 2, 3, non rende, vabbè. Già vende. Questa sera appeso ho comprato il caffè e ho comprato il latte, cazzo ogni volta che scendevo, piglio un cappuccino 2,50 euro, ce la faccio. E con quello che ci ho speso ci usciva la caffettiera. Eia. Porca miseria, no, stavo ascoltandomi, l'unica seccatura del 3009 è che devi stare a vita con questo bip. Cioè io anziché mettere il canale 9, che ormai, che emergenza è, che canale emergenza è, con tanto di cellulari, di internet, il tastino per togliere il bip, porca miseria. Se no, vabbè, si può fare devio del bip. Però magari poi ti vanno a dire che perde l'omologazione, che l'hai modificato, boh, chi lo sa, meglio non toccare nulla. Sì, lascia il bip, intanto non lo passi a nessuno. Figurati, quello di Giovanna ne ha 4, l'FM 500S che mi ha dato tu, gli ho messo 12 bip più 4 ottoni. Oh, 4 ottoni. No, sai perché di notte, che ne so, sei magari con qualcuno, sai col silenzio della notte, no? Magari parli piano, tipo così, no? Parli sprovoci e poi questo bip. Ah, e sai quanto si sente di notte? Anche io quando ricevevo, no? quando c'era Giovanna, quando c'era Fabio, no, che parlavano assieme o parlavamo assieme, quando c'ero io, insomma. E di notte si sentiva un bel sto bip, capito? Quando ce l'aveva, diciamo, il bip. Nel Cone 42 il bip non c'è. Bisogna che controllo a vedere. Devo seguire come si chiama, come la questione dell'oggetto bip. Poi controllo quale è l'elemento da eliminare. Al limite li metti due fili con un pulsantino e te lo metti dietro, uno di quei pulsantini piccolini, e fai prima. Aspetta, nel Connex 4000 Eco credo che l'avessi disabilitato io. Mi pare che tu una volta mi avevi detto, negli anni 90, dice, se vuoi togliere il pontile del bip, devi tagliare il ponticello tipo J9, c'era una J9, una cosa del genere, io l'avevo tagliato alle tronchesine e avevo tolto di mezzo il bip. Ovviamente poi era ripristinabile rifacendo il ponticello o facendogli il devio con la mano, col tastino, no? Sì, attualmente non credo che ci sia, che io ricordi, eh. No, infatti neanche nel 4000 non c'è, e la verità non c'è, adesso non me lo ricordo più. Addirittura io quella volta che stavo lavorando con un compostolo ho trovato la bonifica per fare questi apparecchi qua, come ce l'hai tu adesso, fargli fare tutta la 27 come adesso, così come puoi farlo partire dai 10-20 fino ai 30 e fluscia. C'avevi altri 200 canali, ti facevi tutti i 10 litri e oltre pure. Però non me lo ricordo, era un ponticello che ho eliminato io nel PLL, ma non me lo sono segnato, se me l'avessi segnato in un foglietto, quella modifica, guarda, te la vedete, te l'avessi fatta, te l'avessi modificato l'apparato, te l'avessi modificato, sei salito a minimo da 28 a 30, 31, cosa del genere. Ah, tutto in alto, cioè... Vabbè, naturalmente poi gli estremi di banda per dare le specifiche, non è che tagli solo un cosettino o andrà ritirato per le potenze oppure uno se ne frega. Invece questi SMD di adesso fanno tutto dai 25 ai 30, però non serve a niente, perché a parte i 40 canali nostri, a parte ascoltare i radioamatori dai 28.3, 28.5 intorno a quella zona lì, oddio, cosa ascolti? Al limite sui 29.6 e dintorni ci sono i ponti da ascoltare in FM, tipo quello francese, quello italiano non l'ho mai sentito, arriva sempre un ponte che è francese o tedesco, oppure ci ha parlato qualche tedesco sopra comunque, 10 metri. No, era un ponte americano quello che sentivi, 29.7. Non l'ho più sentito, infatti non l'ho più sentito io, ma quando sentivamo la preparazione americana, cazzo, 9 più 30 arrivava, ci poteva parlare chiunque ci voleva parlare in quel ponte. C'è anche la frequenza d'ingresso di uscita, addirittura, in un sito. No, i patentati potevano pararci, non chiunque. No, aspetta Antonio, quello che ho sentito io era tipo 29.6 e 20 o 29.6 e 30 e sentivo gente a parlare in francese, quindi presumo francese oppure in Corsica, non so, dipende dalla propagazione, però lo sentivo quando c'era forte propagazione. Cioè, se vai adesso non senti nulla, devi beccare i giorni di propagazione molto molto forte. Poi vabbè, la tripla 5, cioè alla fine, a chi piace, a chi non piace. Vabbè, adesso fa poco già iniziano la propagazione dalla parte della Polonia, roba del genere, quindi ci sono tanti di quei ponti simplex, pappagallo che non hai ideato, è tutto pieno. Ah, pappagalli in 27. Boh. Io mi ricordo invece che qualche anno fa si sentiva una bomba, i radiotaxi russi, presumo, non so, la lingua era dell'est, a me sembrava russo, ma poteva essere anche polacco, boh. I radiotaxi in FM, ma a certi segnali a bomba, tutto pieno, su canali normali, su canali alti. E di solito ci parlavano le signorine, no, alla base, diciamo, che davano le direttive agli autisti, ai tassisti su dove andare. Invece quest'anno, l'anno scorso nulla, cioè più, li sentivo più qualche anno fa, adesso nulla, in estate sempre, con la propagazione. Non ho più sentito neanche io, tutto è cambiato. Prima sentivo anche gli Stati Uniti tutti i giorni, e ti parlo di tanti anni fa. Gli americani sentivi proprio a fondo scala, 9.30, ogni volta i gas. Adesso non si sentono più. Peccato che... è sparita un po' di roba, un po' di... molta gente è sparita. Io se ricordo solo che negli anni 80, inizi 90, la propagazione era tale che non potevi parlare in città quasi. Cioè io che avevo l'antenna in basso, la Grand Plane, un quarto d'onda in basso, molto in basso, mi arrivava la propagazione fissa Santiago 9. Cioè sentivi 10.000 voci una sull'altra e quelli di Sassari Bassi non li sentivo. A me non mi sentivano perché mi coprivano. Cioè chi aveva 5 ottavi sentiva più la propagazione che me. Era una cosa incredibile. Poi gli utenti, cioè era pieno, non esisteva cellulare, non esisteva internet. E quindi erano tutti lì. Era l'unico metodo di comunicazione alternativo al telefono di casa. Sì, quello già era così, infatti. Adesso c'è internet, poi c'è queste applicazioni che hanno messo, quindi un po' i baracchini hanno fatto farsi fottere. Un bel di gente usa quell'applicazione Midrash Bitalk, capito? Che parla con tutto il mondo, parla. Ma non te ne vai nulla, cazzo. In Sicilia parlano in 30, in Calabria altrettanto. Oramai. Non penso vedo di molto con l'applicazione, li vedrai. Anche perché c'è un bel di gente, ho visto che c'è poca gente bannata, ragazzi. Ogni tanto ne vedi 15, 16, per volta. Sì, sai così, certi entrano a parlare male. Però lì c'è lì l'operatore vede anche l'IP, se succede qualcosa di più. Tipo diffamatorio. C'è qualcuno che si lamenta, che fa la denuncia lì, si risale all'IP di chi ha insultato, capito? Vabbè, lì li bannano finché non succede niente di grave. Sì, però un po' di... quelli del sud, soprattutto quelli del sud, ci hanno delle cattive maniere, spesso e volentieri. Oppure gli fai una battuta, come aveva fatto chi era, che parla che sul 10. Forse Gianni, avevo fatto una battutina, come si faceva in 27, no? Entrando in una ruota. Ma l'avesse fatta, si è messo questo qua, là, si è offeso, non... vabbè. E poi ricordati che la Midland, anche domani, si sveglia male, dice, beh, qua stiamo vendendo pochi baracchini, chiudiamo i server dell'applicazione e l'applicazione non serve più, perché passi attraverso un server, non sei, credo, diretto da utente a utente, o proprio niente, c'è un server a cui collegarsi, una volta che spengono il server, no, il sito, come lo chiama, un server, e l'applicazione la puoi anche buttare perché non funziona più. Sì, io ce la sono anche, ce la sono, questo di app. C'è quella riportata dove parlano le basi di anni, Stati Uniti, tutto un casino. C'è un bel di app strane adesso. Uiuia. Bisogna inventarsi il video baracchino, credo, bisogna inventarsi. Il giorno che qualcuno se lo inventa di mettere la scheda telefonica nella tabacchina, piglia e parli e ti vedi pure in diretta. Vuoi il video baracchino? Skype, oppure la videochiamata WhatsApp, ecco il video baracchino. Tanto mi anche ricevi a radio, bene o male. Ah, sì, su rete cellulare, 900 MHz o 1800 o 800, dipende dall'operatore. Alla fine, cioè, tu non diciamo un telefono, ma alla fine anche quello è un ricetrasmettitore, mi cantone. Di una comodità estrema comunque. Sai che poi ho fatto capolino su Zello, dopo tanti ma tanti anni, ho provato a mettere Zello, che appena uscito era preso d'assalto, era pieno di canali, pieno di gente. Adesso mortorio. Capito? Ogni tanto la gente si sposta verso nuove applicazioni, nuovi prodotti, e così come anche Civital, che ha avuto il boom di persone, andrà, quando uscirà un'applicazione nuova, simile, tutti andranno verso l'applicazione nuova e anche quello si svuoterà. E quindi prima o poi chiuderà quel servizio. Oh, come tutte le chat, ti ricordi? C'erano chat una volta che oggi non esistono più. Cos'era MSN chat? Ti parlo proprio del 2000, cioè 20 anni fa, caspita, era anche bellina di grafica, o Messenger chat, non mi ricordo, cioè entravi in una stanza, c'erano tanti utenti, i nomi delle stanze erano anche carini, che ne so, quarantena amicizia, no, tutti i quarantenni entravano lì. E poi c'è stata l'evoluzione delle chat, poi ci sono tante di quelle porcate dietro, viene male anche a dirlo. Sì, Migo Live c'è, per carità, è schifo, grazie. E poter parlare con un ragazzo di pagare, ah, ce la fai, vai, cocca, arrivare. No, ma a parte quelle che sono servizi a pagamento, poi chi si vuol fare raggirare si fa. C'era quella chat roulette, no, c'erano di tanti tipi di chat roulette, cioè ti si apriva il video con una persona sconosciuta a rotazione, no, tu potevi cambiare e anche l'altro poteva cambiare. C'erano quelle free, libere, no, cioè entravi e trovavi gente con la pizzola in mano, sempre. Poi piano piano hanno fatto il giro di vite, hanno cominciato a vietare le nudità, anche perché c'entrava di tutto lì, cioè non entravano adulti, entravano anche i ragazzini, i bambini, le bambine, entravano apposta per guardare peraltro, capito? La curiosità dell'essere umano è quella. Come avrei fatto io la mia età, se ci fosse stata l'applicazione, però capisci che non va bene, sono cose un po' delicate. Io lo so già. Io la curiosità nostra purtroppo si allunga un bel, quando ci sono cose nuove, ho fatto la gente di comprare e basta. È sempre meglio, ma con carice oggi. Chiudo chiuso a mezzanotte e mezzo di notte, ero con Torino e Ginko. Ah, un po' state entrando la notte ogni tanto. No, ma guarda che in PMR c'era, prima c'era molta gente in PMR. Certo, tu entri, vabbè, entri in ritardo, magari te lo sei perso, prima sul 23 e poi in PMR, stavano facendo prove, regolazioni. Caspita se ce n'era di gente. Adesso non più, perché si va a mangiare, si va a vedere la TV, Antonè. Chiappa. E si va da Focus, che adesso al suo Focus cielo, e si vede di tutto adesso. Tu sei stato meno di 14 anni, cazzo. Oh yeah. Chiappa. Intanto, rientrato sei. Sì, sono rientrato, buonasera a tutti. Ah, si è presa la Fainé, a Magna, o la pizza. Ah no, non c'è neanche ancora Fainé qua. Oh, qua già la fanno, c'è Giano che la fa, la Fainé. La fa quello che c'è via Catalocchino. Fa la Fainé tutto l'anno. E anche il figlio qui a Carbonazzi, figurati. Io già lo so già che è il Giorgio, non mi ricordo qual è dei figli che si fosse, se Giampiero o l'altro. Già lo so già. Buonasera Marco Condor. Ciao Anto, ben rientrato dalla passeggiata, dai. Eia. Antonè mi stava dicendo di cielo. Questa robetta così, per affamati. Una volta davano quel programma anche la maleducazione, che parlavano tutto di roba, di sesso, di che a chi glielo piaceva, a chi piaceva lungo, a chi piaceva corto, a chi piaceva allucinante. Ma forse era meglio ai tempi di Pippo Baudo, davvero, che era palloso, ma era più corretta la TV. Non c'erano tutti questi programmi bisticcio pilotati, no? Fatti apposta per, o anche quelle cose tipo quello dei cuochi, porca miseria, non mi viene il nome, che la gente lo guarda, non mi ha fatto assaggiare delle ricette, dei piatti, lo guarda per vedere l'umiliazione delle persone, tipo quando lo chef gli tira la pietanza a faccia, che fa schifo, alla gente piace vedere l'umiliazione, capito? Ecco perché lo guarda, non gli hanno fatto nulla di cucina. Vai Anto. L'ho visto sulla auto, l'ho visto, mi pare, no? Non mi ricordo, non mi viene il nome Antone, com'è quel, vabbè che ce n'è più di uno di programmi di cucina, no? Dove c'è il solito tipo tipa che propone un suo piatto e c'è il grande chef di turno, con quello pelato, come si chiama? Bastianich mi pare. Una volta a uno per poco non gli ha tirato la pietanza a faccia a me. C'è anche il modo di fare, si spera che sia pilotato, se no a farsi anche avvilire così. Mi ha fatto assai Bastianic. Poi Bastianic cosa va a fare? La pubblicità del McDonald's. Cioè si parla di cucina, di cosa, di 3 stelle, 5, e tu fa la pubblicità del McDonald's. Cibo spazzatura. Masterchef. Commento. Caso di Masterchef, come si chiama? Quello, Masterchef. E poi ce ne saranno simili. Insomma, devi andare lì a subire tutti gli improperi che ti dà, le dice al chef, che la roba fa schifo, certi fanno finta di vomitare, manco avessero mangiato, ma cacca, mi stavo uscendo un'altra parola, più sporca. Gordon Ramsay, quello è lo chef più bastardo che c'è. Infatti in America gli hanno fatto uccidere una quindicina di locali suoi, perché facevano schifo, hai capito? Invece in Italia faceva lo stronzo. Cioè l'unico che si salva è cosa, quella palettana, me, che è più tranquillo, ma gli altri proprio sono uno peggio dell'altro. Cannavacciuolo? Sì, a quello è più tranquillo, ma Gordon Ramsay e quell'altro coccomero di coso, di che hai detto tu, quelli non servono a nulla. E vanno a fare la pubblicità di merda, capito? Si fanno comprare per niente, si fanno comprare. Uiuia. Eia, aspetta, dunque, quanti chef c'erano che facevano questi programmi? Tipo Bastianic, Cannavacciuolo, non mi ricordo se partecipasse comunque a quel programma. Gordon Ramsay, vabbè, lo conosco. Come si chiama? Cracco, quell'altro, quello con la barba mi pare. Poi altri non me li ricordo bene i nomi, comunque. Rubio no, Chef Rubio è quello che va a mangiare nelle trattorie, che va a gustare i piatti più che altro. Però anche lui credo sappia cucinare, mi pare che abbia fatto qualche sfida ogni tanto con qualche gestore di trattoria. Quello con i baffetti alla Salvador Dalì, è presente Antonè? Sì, ho capito. C'è anche quello chef che usciva con i camionisti, addirittura. Figurati tu. Sì, è lui. Lui faceva o sfide tipo a trattorie famose, oppure andava soprattutto a mangiare, più che a cucinare, a mangiare. È roba buona poi, mamma di turchi. Mamma di turchi, sempre mangiendo. Magari è un napoletano. No, guarda su internet, Chef Rubio, Rubio, quello in baffetti, con i baffetti a punta in su, tipo Salvador Dalì. Poi non so se si sia, se sia cambiato i baffi, tagliati, boh. Mi è mutato il Rubio, va. Questa va la segno, ora devo scrivere. Rosaretta. A me faceva ridere Canavacciuolo quando c'aveva l'assistente che combinava casino, allora lui mi dava, faceva il gesto di dargli lo schiaffo e quello si ritirava, sì. Lui, ah. Io lo vedo vagamente quello lì, perché se lo guarda la mia compagna, se lo guarda qualche volta. Ma già ho capito più o meno, perché io lo guardo raramente, ma già ho capito chi è. Allora, vabbè, Rubio te l'ho detto, quello che ha i baffettini a punta in su. Canavacciuolo è quello, devo dire, robusto, alto, grosso e con la barba. Un napoletano, se dicendo. Sì, sì, poi non so se sia proprio di Napoli o comunque... Poi c'era il cognome, Canavacciuolo. Ogni addittongo. Già Rubugnomo sto giocando... Un coso, non ti si dice, un'impresa. No, iaia, le racconti, siamo. Tutti i chef, tutte le televisioni sono per fare i soldi. Va bene, dai, che io faccio quelle team, le vado a cena, ci sentiamo dopo al limite, se siete qua, dai. Che riprendo fra un po'. Se no, a domani. Capo, dai. Ciao Antone, dai, ciao, ci sentiamo. Ok, va bene. Allora, al limite se siete qua. Ciao. Ciao Antone, dai. Ti saluto, no, io dopo non rientro, perché adesso, beh, un po' sbagliato io, ero convinto fosse le 9:30. So cacchio di orologio, invece sono le 8:30 passate. Ho letto male io prima. E quindi no, non ce la faccio a stare troppo tempo. Mi dedico alla TV. E quindi dai, Antone, ritieniti salutato e ci sentiremo fra altri 6 mesi, ok? Ciao anche Antonio, buona serata, buon tutto, buona cena, sera di fare, e un saluto per gli ascoltoni, e buona serata a tutti, dai, alla prossima fois. Capo, dai, ce la risentiamo alle prossime, ciao ciao, ciao Antonello e ciao anche a te. Ah, lo volevo dire in fretta. Ciao, ciao, comunque è Marco lui, Condo, ciao, ciao, ciao. Sì, Marco Condo, dai, salutoni, dai, ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.